L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Si è conclusa ieri a Verona Solar Expo, la fiera che annualmente ci aggiorna sulle migliori e più innovative tecnologie del mondo dell'energia solare, delle bioenergie e delle altre fonti rinnovabili. Proprio in concomitanza con questa fiera, il Sole 24 Ore ha rilasciato il 3 maggio scorso il suo rapporto sulle energie rinnovabili, che potete ancora trovare online sul sito del giornale, ilsole24ore.com. Ma anche noi qui oggi all'altro pianeta ci occuperemo di energie rinnovabili, anche se in particolare di energia solare. Ci concentreremo infatti sulle tre tecnologie principali per trasformare l'energia del sole in energia sfruttabile. Parleremo quindi di solare termico, solare termodinamico e fotovoltaico per imparare a distinguerli e a conoscerne pregi e difetti. Lo schema è molto semplice. A tutti abbiamo posto le stesse domande e la prima domanda ovviamente è stata: che cos'è? Iniziamo dal solare termico, quello che da più tempo è diffuso nel nostro paese. Risponderà il professor Vittorio Chiesa, che al Politecnico di Milano dirige l'Energy and Strategy Group. Solare termico, diciamo, rappresenta un'installazione che serve sostanzialmente per la produzione di acqua calda sanitaria in uso nelle abitazioni, quindi è l'uso dell'energia solare nella forma, se vuole, un po' più semplice in assoluto. Cesare Fera è invece il presidente di ANEST, l'Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica. Solare termodinamico è l'energia solare termica che conosciamo, che però arriva a temperature più alte, quindi fa il ciclo termodinamico, per cui arriva a 150, 200 fino a 500 gradi di temperatura. Può usare quindi sia per i processi industriali dove richiedono temperature tra 150 e 200 gradi, sia per la produzione di energia elettrica, si richiedono temperature di 400 o 500 gradi. Asso Solare invece rappresenta l'industria solare fotovoltaica. Gianni Chianetta è il presidente. Un impianto fotovoltaico è un impianto che consente di avere energia elettrica dal sole, quindi dei raggi solari. L'impianto fotovoltaico, proprio la parola stessa lo dice, fotovoltaico, dai fotoni, quindi della luce, trasformazione poi in energia elettrica. Seconda domanda, che tipo di impianti servono? Grandi o piccoli? E dove si installano i pannelli necessari a catturare l'energia solare? Riprendiamo il nostro giro con il solare termico e il professor Vittorio Chiesa. Ma gli impianti sono tipicamente appunto impianti che vengono installati sulle abitazioni. Si distinguono anche esteticamente rispetto al pannello fotovoltaico che è fatto dalle celle, ma classicamente sono quelli che hanno, come dire, anche dimensionalmente una superficie più piccola, perché è sufficiente, ripeto, un certo numero di metri quadri, 4 o 5, per raggiungere poi l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno di una famiglia. Per il solare termodinamico, Cesare Fera, ANEST. Le due, diciamo, filiere tecnologiche si distinguono proprio in grandi impianti per la produzione di energia elettrica, di cui abbiamo in Italia l'esempio di un impianto da 5 megawatt che occupa circa 5 ettari di terreno a Priolo, in Sicilia, che ha fatto l'Enel con degli specchi parabolici. E poi invece sono gli impianti piccoli che possono contribuire quindi o alla produzione di calore industriale qui per le piccole imprese, o anche può contribuire al condizionamento, perché con un assorbitore si può utilizzare la temperatura del liquido a 150 gradi per produrre il fresco in casa. Per il fotovoltaico, Gianni Chianetta, Asso Solare. I pannelli sono di dimensioni comunque diciamo abbastanza piccoli, poi ovviamente messi in serie costituiscono poi alla fine un impianto più grosso o più piccolo a seconda di quanti pannelli inserisco. Terza domanda. Le imprese italiane del settore installano prodotti esteri o c'è anche una produzione italiana di tecnologia nel settore? Come al solito, partiamo dal solare termico con Vittorio Chiesa dell'Energy and Strategy Group del Politecnico di Milano. Il prodotto è un prodotto a parte soluzioni tecnologiche un po' più raffinate come i tubi, diciamo, sottovuoto. La tecnologia usata in maniera molto diffusa è una tecnologia molto nota, consolidata, matura, quindi che non presenta delle rilevanti complessità. Dico questo perché in realtà appunto anche le imprese italiane si producono internamente i propri prodotti, qualcuna, soprattutto quelle di grandi dimensioni, però ecco, se prendiamo il campo degli specialisti e dei distributori nel settore del solare termico, questi sono tipicamente imprese che si producono internamente i propri collettori solari. Per il solare termodinamico, Cesare Fera di Anest. Questo è il punto di forza, l'aspetto più interessante, che è una tecnologia italiana, assolutamente al 100%. Perché questo? Perché è una tecnologia che nasce adesso, per cui l'Italia ha avuto la forza, la lungimiranza di investirci già da alcuni anni, per cui è diventato un detentore di tecnologie, anzi di diverse tecnologie, con numerosi brevetti depositati e con più di 20 aziende, che sono quelle che poi aderiscono all'ANES, che hanno investito e che stanno sviluppando la tecnologia. Stessa domanda per il fotovoltaico. Quanta parte della componentistica è italiana? Gianni Chianetta. Le imprese in Italia sono di vario tipo, dalle imprese che producono moduli, celle, quindi moduli, dico, intendo dire pannelli, a imprese che producono inverter, a imprese che installano, realizzano impianti e quant'altro. È ovvio che il mercato fotovoltaico è partito prima in altri paesi, bisogna sottolineare che comunque il pannello oggi costituisce circa il 30% del valore di un impianto, quindi vuol dire che di questo 30% in parte, anche se in parte minoritaria, viene fatto in Italia, ma tutto rimane del 70%, che vuol dire tutti gli altri materiali, gli altri componenti eccetera, sono quasi interamente fatti in Italia. La quarta domanda riguarda il numero di addetti al settore nel complesso. Qui ovviamente ci saranno delle sovrapposizioni. Chi installa i pannelli fotovoltaici è di solito anche un installatore di pannelli per il solare termico, ma le risposte sono comunque significative. Per il solare termico, il professor Chiesa. La stima degli occupati è molto complessa, perché in realtà è un tipico, come dire, il numero di imprese specializzate è molto limitato. Chi opera nel settore in realtà offre pannelli altro. Solari termici all'interno di un portafoglio di offerta molto più largo. Per comparazione con altri settori, guardando quello che in Italia mediamente viene installato ogni anno, mi sentirei di dire che addetti equivalenti nell'intorno di 4.000. Cesare Fera, solare termodinamico. Ci sono aziende che aderiscono all'ANES, che sono sia piccole che medie che grandi. I settori di queste aziende, che sono alcune anche da 10 o 20 mila dipendenti, che si occupano di solare termodinamico, messi assieme tra diretto ed indotto, fanno circa un migliaio di persone, con una grossa parte di ricerca. Quando poi si inizieranno concretamente l'applicazione industriale, che non saranno pochi casi, ma saranno centinaia di migliaia di casi, c'è un'esplosione di occupazione. Secondo gli studi fatti da Pricewaterhouse, anche da T. Carne, che sono delle grosse società di consulenza, prevedono nel 2020 200.000 posti di lavoro a livello europeo e nel 2050 2 milioni di posti di lavoro. Gianni Chianetta per il fotovoltaico. Noi abbiamo stimato degli operatori diretti che sono intorno ai 20.000 unità, e operatori indiretti, quindi che parzialmente lavorano per il fotovoltaico o danno dei servizi ovviamente al fotovoltaico, che praticamente sono un numero veramente alto, altissimo, che arriva fino alle oltre 80.000 unità, quindi superiamo in totale tra diretti e indiretti oltre 100.000 persone, e via via questa percentuale stava, almeno prima del conto energia, dello stop del conto energia, crescendo. Ci auguriamo che riprenderà. Ultima questione, ma certamente non meno importante, quella spinosa dei contributi e degli incentivi statali. Il professor Chiesa dell'Energy and Strategy Group del Politecnico di Milano. Ma attualmente l'unica forma di incentivazione è data dalla detrazione fiscale nella misura del 55%, perché dall'imposta lorda, perché rientra l'installazione del solare termico rientra tra le spese di riqualificazione energetica che sono ammesse a questa detrazione. Recentemente il rimborso è previsto su 10 anni anziché 5 come in passato, e questa di fatto è l'unica forma di incentivazione esistente. Cesare Fera, presidente di Anest per il solare termodinamico. Per la parte elettrica c'è un conto energia simile a quello del fotovoltaico, anche se a prezzi un po' più bassi, che sono intorno ai 28 centesimi per kilowattora prodotto. Questo da un lato è positivo, perché dimostra che nonostante la tecnologia sia all'inizio è sufficiente un incentivo inferiore a quello del fotovoltaico per costruire i primi impianti. E poi c'è un contributo sulla parte termica che molte regioni stanno avviando principalmente come fondo perduto su progetti ad hoc proprio per avviare la tecnologia, e che il nuovo decreto sulle rinnovabili, il quale ha dato molto spazio sul solare termico, prevediamo che nei suoi decreti attuativi sostenga il solare termico in diversi modi, che possono essere sia la detrazione fiscale, che c'è già del 55% per certi importi, o con proprio un conto energia sul termico che potrebbe fare per gli impianti di dimensioni maggiori. Diciamo che è in sviluppo, non è così avanti come l'eolico o il fotovoltaico. Per quanto riguarda il fotovoltaico, i ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico hanno appena trovato un'intesa sulla parte relativa agli incentivi per la produzione di elettricità da fonte solare, ma non c'è nulla di definitivo ancora e restano quindi i dubbi di Gianni Chianetta. In futuro si prevede un maggiore focus sui tetti, quindi sugli impianti a tetto, segmento molto importante che anche noi dell'associazione abbiamo voluto sempre stimolare, d'accordo con il governo, anche anzi abbiamo chiesto noi spesso i premi per chi fa smaltimento amianto col fotovoltaico, chi fa efficienza con il fotovoltaico. Il rischio è che tutti si riversino verso impianti piccoli e non si facciano più impianti medio e grandi, perché non sappiamo per quale ragione il governo sta promuovendo soltanto impianti oltre fino a una certa dimensione, che comunque rimane abbastanza piccola. Quindi ci sarà la guerra, tra virgolette, mi lasci dire, tra tanti operatori che normalmente erano abituati a lavorare in segmenti diversi, grande, piccolo e medio, che invece dovranno spartirsi una torta ben più piccola, che non è nell'ottica di dare al fotovoltaico un ruolo importante, significativo come contributo al fabbisogno energetico nazionale. Sotto attacco per i grandi impianti che in alcune aree di pregio del nostro territorio effettivamente stonano, e ne parleremo oggi stesso nell'intervista di Cristina Carpinelli, il presidente di Assosolare, Gianni Chianetta, ci tiene a precisare. Si possono fare nei grandi capannoni, e ce ne sono tantissimi in Italia, di grandi dimensioni, si possono fare nelle cave dismesse o in terreni in realtà da bonificare, ci sono tanti spazi, ma così come è fatto il decreto c'è un divieto, ovviamente c'è uno stop agli impianti oltre certe dimensioni. Infine una chicca, per così dire, per gli amanti del fai da te: chi vuole costruirsi un impianto solare termico può frequentare i corsi della rete per l'autocostruzione solare, di cui fa parte Daniela Re. Questo tipo di corso intende realizzare un vero e proprio impianto solare termico, quindi per produrre acqua calda sanitaria, all'interno della 2 giorni. Vuol dire che prenderemo i vari materiali che compongono il pannello e che compongono poi l'impianto, quindi oltre al pannello le tubazioni, il serbatoio eccetera, e lo andremo ad assemblare tutti insieme, ovviamente con la supervisione dei docenti. Ad opera realizzata uno può ha imparato come farla anche a casa sua? Può avere gli strumenti tecnici. L'unica cosa che in effetti devo dire è che mentre l'impianto solare tendenzialmente è sempre quello che può cambiare è la connessione con la fonte ausiliaria di calore, nel senso che l'impianto solare non garantisce una copertura del 100% del fabbisogno di acqua calda a livello annuale, per cui noi dobbiamo sempre avere una fonte integrativa, che può essere una caldaia, un boiler elettrico, una termostufa o quant'altro. Quindi quello che può cambiare a seconda dell'impianto che si ha a casa propria è proprio l'integrazione ausiliare. L'impianto

in gran parte distruggendo il pianeta in cui siamo nati. E siccome facciamo dei calcoli molto poco lungimiranti e temporalmente molto brevi, perché consideriamo le nostre vite, consideriamo al massimo la vita dei nostri figli, politicamente poi non ne parliamo, perché politicamente i calcoli si fanno in base a una legislatura o poco più, e non ci rendiamo conto che stiamo un po' bruciando la terra dove siamo nati e dove viviamo. Tullio Pericoli, lei è un artista anche molto schivo. Prima di fare questa intervista ci siamo sentiti, mi ha ripetuto più volte che non avrebbe avuto piacere a usare il telefono portatile, tanti segni che in qualche modo raccontano un uomo che ama dipingere, però non ama appunto questa comunicazione così rapida, veloce, invadente. Questo secondo lei può essere letto anche come il segno di una persona che, rispettando questi tempi, rispetta un po' il tempo della terra? Sì, io rispetto, sì, forse sì, non ci ho mai pensato, per la verità mi ci fa pensare lei. Io rispetto forse i miei tempi, che sono i tempi della mia crescita, il tempo che mi ci vuole per meditare, per produrre, per inventare, e poi un po' anche il tempo del necessario, come dire, che è legato al mio lavoro, il tempo della pittura. Ecco, la pittura è fatta di gesti, di colori che si appoggiano su una superficie, che hanno bisogno anche di asciugare, di seccare, e quindi piano piano sulla tela si crea una superficie che somiglia un po' a quella della terra. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista e andiamo all'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Come sempre il microfono passa a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, anche oggi siamo in collegamento con gli amici del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e con noi la dottoressa Costanza Pratesi, che al FAI si occupa proprio dell'ufficio ambiente. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, voi tutte le volte, tutte le settimane ci portate a vedere un angolo d'Italia che ha magari dei problemi nascosti, ma che voi dal vostro punto di vista siete capaci di individuare e di segnalare. Ecco, lei oggi, se non sbaglio, vuole portarci sul lago di Como. Sì, esattamente, direi, no? Il lago di Como, che è questo incantevole nostro paesaggio italiano che ha incantato già Goethe, Stendhal e tanti altri famosi autori. E in particolare vi potrei portare in un luogo più ancora specifico sul lago, cioè Villa Erba. Ecco, dove siamo? In che comune siamo del lago di Como? Siamo a Cernobbio. Ah, bene. E anche questo è uno dei punti più incantevoli del lago, è proprio apprezzato tantissimo, direi, non solo da noi che abitiamo questo paese, ma anche molto dai turisti, da chi viene da altri paesi che ammirano questo paesaggio lacustre così particolare. Senta, ci descriva un momento questa Villa Erba. Villa Erba è una villa ottocentesca legata alla storia della famiglia Erba, che era una famiglia nobile lombarda, come immagino molti sanno, e Carla Erba, e anche questo probabilmente molto noto, divenne moglie del duca Giuseppe Visconti di Modrone e quindi madre del noto regista Luchino Visconti, e quindi la villa è legata, oltre appunto alla storia del lago e delle queste ville nobiliari che hanno tutto il loro fascino nell'affacciarsi, no, con una sontuosa bellezza sul lago di Como, hanno anche c'è questa aggiunta particolare della storia di Luchino Visconti, e che traspare, la si ritrova anche nella sua filmografia, c'è tutto il fascino di un personaggio così importante per la nostra cultura che vi ha vissuto, quindi aumenta ancora di più il suo fascino proprio grazie alla presenza di Luchino Visconti. Ecco, che noi immaginiamo trascorrere da bambino e da ragazzo, come capitava allora per i nobili del tempo, le vacanze sul lago di Como, magari annoiandosi un pochettino, ma certamente godendo di privilegi notevoli vivendo nella natura. Ecco, però se voi venite a segnalarci un luogo così incantato è perché c'è qualcosa che non va. Ecco, che cos'è che incombe sulla Villa Erba di Cernobbio? Villa Erba oggi è quasi tutta la proprietà, è di Fiera Congressi Milano ed un centro congressi, e quindi giustamente viene anche utilizzata per scopi promozionali e con un'attività congressuale stabile, e direi con una buonissima cura anche della parte ancora oggi del parco e con una grande attenzione al suo mantenimento. Però purtroppo pende su questa meraviglia un progetto che ci è stato presentato come un progetto, come si dice purtroppo oggi spesso, di valorizzazione, cioè il progetto di una marina, di un piccolo porto, piccolo metterei le virgolette, perché si stiamo parlando di 140 posti barca, in un posto in realtà chiaramente molto piccolo, e quindi questa nuova attività in questo spazio che verrebbe, noi crediamo, direi a stravolgerlo fisicamente prima di tutto, perché oltre ai 140 posti barca e quindi alla creazione del porto, alla creazione di un terrapieno lungo la foce del Breggia, e questo vorrebbe anche dire costruire un'altra struttura edilizia, una struttura edilizia che sarebbe di supporto al porto, quindi 900 metri quadrati in più costruiti insomma in questo complesso che ha questo valore storico-culturale così meraviglioso, insomma non ci sta, è veramente un po' questa mania, potrei quasi dirla oggi, di voler valorizzare con l'eccesso. Certo, sentite, ma voi del FAI, che di queste valorizzazioni di case storiche avete una grande esperienza, credo che un consiglio lo possiate dare al proprietario. Certo, io direi, perché effettivamente sappiamo bene anche noi del FAI, cioè i beni, i valori che hanno questo valore così importante hanno dei costi anche enormi di gestione, di manutenzione. Certo, hanno bisogno di vivere anche, ma la soluzione per farli vivere dovrebbe poi essere la meno invasiva possibile. Quest'area, che ancora oggi è la meno utilizzata, che è l'area del galoppatoio, forse lì una forma di riutilizzo e di apertura alla cittadinanza, ma con progetti molto meno invasivi, molto più delicati, potrebbe garantirne un futuro davvero sostenibile, nel senso tramandabile alle generazioni future. Io la ringrazio, fatevi sotto con, con la Fiera Milano per i vostri consigli, in modo che questa villa mantenga quel fascino che peraltro ha mantenuto fino adesso ed è utilizzata proprio per il fascino che ha come centro congressi di Fiera Milano. E per questa puntata è davvero tutto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it oppure direttamente a me laura.bettini@radio24.it.